get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, benvenute alla nostra 310ª trasmissione. Abbiamo subito cominciato alla grande con un interrompendo a metà la sigla iniziale. Speriamo che non ci siano altri di inconvenienti. Comunque, qui in studio oggi siamo Caterina che vi sta parlando e Stefania. Buonasera. Allora, per stasera abbiamo programmato una intervista telefonica con la neoeletta presidente di Rete Lanford, Maria Grazia Sangalli, con la quale ci collegheremo tra poco. Ma cos'è Rete Lanford? Ci vuoi dire qualcosa di più, Stefania? Allora, Rete Lanford, come si legge chiaramente nel loro sito, è l'avvocatura per i diritti LGBT. È stata fondata su iniziativa di tre avvocati, Saveria Ricci, Francesco Bilotta e Antonio Rotelli, per rispondere al bisogno di informazione e di diffusione della cultura e del rispetto dei diritti delle persone omosessuali nel nostro paese. La rete è stata chiamata appunto Rete Lanford per ricordare il barbaro omicidio di un attivista giamaicano impegnato nel rispetto e nella lotta per i diritti delle persone sieropositive. Per i membri dell'avvocatura per i diritti LGBT, Lanford rappresenta un esempio da proporre ai colleghi avvocati che hanno deciso di assolvere, anche nel campo della tutela dei diritti delle persone omosessuali, la loro funzione sociale di sostegno e tutela alle persone discriminate. Bene, a questo punto direi di mandare un brano musicale che ci permetterà di chiamare Maria Grazia. Quindi ascoltiamo dalla voce dolce nera la canzone Lulu e Marlene, che credo parli delle attrici Louise Brooke, che in arte si chiamava Lulu, che tra l'altro è morta nel 1985, e Marlene Dietrich, entrambe dive del cinema. Nel testo pare si faccia riferimento alla dilagante violenza nazista durante la Repubblica di Weimar, quindi buon ascolto di questa canzone e noi nel frattempo ci organizziamo e chiamiamo al telefono Maria Grazia. Lulu, la luce vuota, senza colori, senza più vita. Lulu, ogni ora persa è una ferita che si apre in volto a noi. Ma Marlene, persi nell'eco, ecco. Allora, davvero una bella canzone questa di Dolce Nera. Adesso, se sono riuscita a fare tutti i collegamenti giusti, dovremmo avere in linea anche Maria Grazia. Ci sei? Eccomi, mi stupisco per quanto sono brava questa sera, riesco a fare tutto. Ho solo tagliato a metà una canzone della sigla, però va bene, si può bene. Allora, intanto ti diamo il benvenuto alla nostra trasmissione. Ciao. Siamo contentissime che tu abbia accettato di fare questa intervista radiofonica. Allora, noi abbiamo 7 miliardi di telefonate, di domande da farti. Quindi... Molto bene, intanto ringrazio io voi grazie buonasera a tutte. Ok, allora passiamo subito alla prima domanda, anche perché diciamo spazia in molti aspetti della rete Lanford, e quindi ci vuoi spiegare cosa si propone di fare rete Lanford e chi ne fa parte? Intanto appunto ribadisco grazie dell'opportunità che ci state dando di parlare della nostra realtà associativa, che forse non tutte conoscono, anche se recentemente se ne è parlato a proposito delle trascrizioni dei matrimoni esteri e della condanna per discriminazione dell'avvocato Taormina. Grande, poi ti chiedo qualche particolare in più, perché è una soddisfazione, mi sento un pochettino più grassa dopo questa notizia. Esatto. L'associazione è nata 8 anni fa ed è costituita da avvocati e avvocate che esercitano la professione forense e sono iscritti ai rispettivi albi territoriali e che hanno deciso, iscrivendosi e facendo parte dell'associazione, di mettere a disposizione le proprie competenze, oltre che il proprio tempo, in modo del tutto volontaristico per promuovere l'avanzamento dei diritti e delle tutele delle persone LGBT, studiando, promuovendo azioni giudiziarie e formando i colleghi. I compiti che ci prefiggiamo sono innanzitutto la sensibilizzazione al rispetto dei diritti delle persone LGBT lo facciamo attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione anche in collaborazione con ordini degli avvocati, la scuola superiore dell'avvocatura, gli enti pubblici e ovviamente anche altre associazioni. Ti dirò, sembra un aspetto trascurabile, ma ti assicuro che parlare di certi temi come l'omogenitorialità, coppie omosessuali, matrimonio tra persone dello stesso sesso all'interno del mondo giuridico costituisce davvero un elemento di novità e di forte impatto. Ma sai, queste cose sono comunque sempre ostiche per molte persone, perché per esempio noi tempo fa abbiamo fatto una trasmissione con delle insegnanti e ti assicuro che affrontare certi temi nelle scuole non è che poi venga così scontato, che sia così semplice, ma non tanto per la ricezione da parte dei ragazzi, è proprio con le colleghe che è difficile. Quindi capisco perfettamente che cosa vuoi dire e conosciamo bene il problema. E d'altronde devo dire che in mancanza di interventi da parte del legislatore, ormai l'avanzamento, cioè ora come ora l'avanzamento dei diritti si costruisce passo passo nelle aule giudiziarie grazie all'intervento di bravi avvocati, ma ovviamente anche di bravi giudici competenti e che fanno da battistrada. Certo. Noi stessi abbiamo promosso delle cause pilota, prima facevo riferimento alla causa famosa contro l'avvocato Taormina, ma è quella più recente e l'abbiamo portato dinanzi al tribunale perché l'avvocato Taormina ha affermato nel corso di una trasmissione radiofonica che non avrebbe mai assunto persone omosessuali nel suo studio. Abbiamo tenuto sia in primo grado davanti al tribunale di Bergamo sia in appello davanti alla corte d'appello di Brescia una condanna al risarcimento del danno e alla pubblicazione dell'estratto della sentenza su un quotidiano nazionale e ovviamente al pagamento delle spese. Grande. Facendo leva su una normativa che è stata introdotta in Italia grazie al diritto europeo, a una direttiva comunitaria. Era la prima volta che in Italia si chiedeva l'applicazione di una legge che colpisce la discriminazione sui luoghi di lavoro anche per le persone omosessuali. Certo. E di questo siamo veramente molto contenti. Certo. Così come ad esempio abbiamo supportato l'attività dei sindaci che hanno deciso in molte città italiane, anche tra cui Roma, di trascrivere i matrimoni contratti all'estero nel registro di stato civile. Sì. E dopo l'intervento repressivo dei prefetti abbiamo presentato ricorso ai TAR di quattro regioni. È una notizia di qualche minuto fa il fatto che sia stata la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano abbia chiesto l'archiviazione su un procedimento aperto nei confronti del sindaco Pisapia per non aver ottemperato all'ordine del prefetto di cancellare, quindi di annullare le trascrizioni di questi matrimoni. E questa cosa era stata, se non sbaglio, anche lanciata qui a Roma nei confronti di Marino, il quale aveva risposto che come ha fatto poi Pisapia. Esatto, purtroppo si sono aperti questi procedimenti penali non solo a Milano ma anche a Roma, così come a Livorno, a Bologna, nei confronti di sindaci che hanno ottemperato alla legge, piuttosto che a ordini provenienti dal prefetto. A Milano, per fortuna, la Procura della Repubblica ha chiesto l'archiviazione di questo procedimento. Tra l'altro, credo anche che la nostra associazione abbia contribuito a questa decisione, perché abbiamo depositato nei giorni scorsi una nota difensiva con la quale spiegavamo le ragioni giuridiche che sostenevano l'azione dei sindaci. Ottimo, ottimo. Senti, a proposito della legge, io avevo bisogno di un chiarimento, no? Da quanto ho capito, voi non vi proponete di fare delle proposte di legge, cioè voi operate con le leggi che ci sono, giusto? Ma guarda, sì, in realtà noi abbiamo anche lavorato su alcuni testi di legge. Sul nostro sito che è www.retelenfor.it c'è un link ad alcune proposte che abbiamo elaborato in tema di matrimonio egualitario e di rettificazione degli atti anagrafici senza intervento chirurgico e di proposta di legge contro l'omofobia. Quindi in realtà abbiamo contribuito sì, invece ad elaborare dei testi, testi normativi. Chiaro che poi non sono, sì, sono stati presentati, ma non sono neanche stati posti in discussione. Però la cosa importante è che voi riuscite in ogni caso ad avere grandi risultati anche con le leggi un po' retro che ci abbiamo noi, insomma. Devo dire che proprio è quello che dicevo prima, in mancanza di interventi da parte del legislatore e quindi in presenza di un vuoto normativo su queste questioni, l'avanzamento in tema di diritti si costruisce proprio nelle aule giudiziarie, ora come ora. Certo. Quindi la nostra opera purtroppo è importante, devo dire che è importante, sì. Summertime and the living is easy. Fish out jumping and the curtain is high. Your daddy's rich and your ma is good looking, so little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Your little wings and take to the sky, take to the sky. But until that morning, there's nothing that can harm. summertime, yes, the time I'm talking about, summertime and the living, summer living, and the living is so fine. The fish are jumping and the curtain is high. He's rich, your dad is filthy rich, and your mama, hot mama, your mama's so good looking. So hush, little baby, don't you cry. La vostra sede è a Bergamo, ma voi riuscite a coprire altre zone? Sì, la nostra sede nazionale è a Bergamo e l'abbiamo trasferita lì da Firenze perché è presente il maggior numero di soci. E l'associazione però ha costituito e promosso una rete di professionisti che si occupano della tutela dei diritti delle persone LGBT, che opera su tutto il territorio nazionale. Aderiscono professionisti da quasi tutte le regioni, sicché abbiamo una copertura pressoché capillare in tutta Italia che ci consente di intervenire per rispondere a richieste di assistenza e tutela localmente. Ho capito. E vuoi ripetere, per così meglio sempre ripeterlo più volte, come il vostro sito, come siete raggiungibili? Sì, il nostro sito è www.retelenfort.it. Abbiamo anche una pagina Facebook e un, non so come si chiami, un contatto Twitter. Beh, sono poco tecnologica io, cioè capisco di nome ma non di fatto, quindi, cioè. Senti, noi sappiamo che sei stata eletta da poco presidente appunto di Rete Lanford e ti facciamo i nostri complimenti. Grandissimi. Grazie. Ci piacerebbe che tu ci spiegassi che tipo di struttura avete e se ci sono che tipo di rapporti avete con le istituzioni, tipo finanziamenti pubblici o patrocini o collaborazioni di vario genere. Ma guarda, sì, a novembre abbiamo l'assemblea dell'associazione ha rinnovato le cariche dopo 3 anni ed è stato eletto il nuovo comitato esecutivo che resterà in carica per il prossimo triennio per coordinare la come dire, il tanto lavoro che ci occuperà per i prossimi anni. La nostra specificità e la nostra presenza su tutto il territorio nazionale ci consente di porci come degli interlocutori validi da un punto di vista tecnico per le stesse istituzioni pubbliche quando si trovano ad affrontare questioni che riguardano l'orientamento sessuale o l'identità di genere. Il lavoro che abbiamo fatto nel corso di questi anni, anche da chi mi ha preceduto, ha consentito di stringere rapporti con le università, con centri di ricerca, con il Consiglio Nazionale Forense, ma anche con i singoli ordini, ma anche con UNAR, per il quale abbiamo portato a termine 2 ricerche nelle regioni a obiettivo convergenza, che sono le regioni del sud, e con l'OSCAD, che è l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, per la formazione degli operatori delle forze dell'ordine. E per conto poi della Commissione Europea abbiamo in corso due progetti di ricerca, uno sulla mediazione tra coppie dello stesso sesso, tra l'altro interessantissimo, che si concluderà a giugno con una conferenza, con la conferenza finale, e uno sulla violenza nei confronti delle donne lesbiche e delle donne trans, con un focus sulla violenza domestica. E, come dire, l'obiettivo è di contribuire laddove ce ne sia bisogno a formare una cultura, proprio una cultura del rispetto della dignità delle persone, a prescindere dal loro orientamento sessuale o dalla loro identità di genere, che appunto non può essere motivo per giustificare trattamenti diseguali o discriminatori, insomma. Certo. Noi vogliamo ricordare che questa nostra trasmissione è uno strumento per focalizzare l'attenzione e prendere in esame le problematiche ovviamente più legate alle lesbiche. Vorremmo quindi farti delle domande più specifiche. Le lesbiche che si rivolgono a voi, quali tematiche, o meglio, quale aiuto vi richiedono? Guarda, noi abbiamo uno sportello che si chiama SOS Telenford, al quale, nel quale vengono convogliate le richieste di intervento e di tutela. In questi ultimi anni abbiamo registrato un incremento delle coppie lesbiche che decidono di andare all'estero per unirsi in matrimonio. Si tratta di una, come dire, legittima aspettativa di riconoscimento a fronte di una situazione di anomia nella quale sono ormai relegate tante coppie in Italia. C'è anche una richiesta di tutela del rapporto mediante la predisposizione di scritture private o notarili del rapporto con i figli. Direi che è sostanzialmente questo. Certo, senti, invece un'altra cosa è più legata alla discriminazione, ma come si diversifica la discriminazione che subiscono le lesbiche rispetto ai gay o ai trans? Ma le donne, come dire, subiscono una, le donne lesbiche subiscono una doppia discriminazione, che è di genere e per orientamento sessuale, e che rende per esempio più difficoltoso talvolta l'accesso al mondo del lavoro. È vero però che ad esempio proprio in ambito lavorativo esistono delle disposizioni normative che sono frutto della trasposizione in Italia di direttive comunitarie che vietano la discriminazione per fattori di rischio come il genere, l'orientamento sessuale, oltre alla religione, l'origine etnica e così via. E questo per dire che anche se scarsamente utilizzati, esistono degli strumenti giuridici di lotta e contrasto alla discriminazione che possono essere attivati. Cioè, certo. Insomma, uscirei un po' dallo stereotipo della lesbica discriminata e insisterei sulla possibilità di valorizzare le differenze, la dignità di ciascuna, di promuovere l'uguaglianza di diritti e sulla possibilità anche di agire in giudizio se nel caso, qualora si dovessero verificare situazioni del genere di discriminazione. Certo, certo, certo. Senti, invece, andando a toccare un argomento che interessa un po' a tutti coloro che hanno creato ed appartengono ad una famiglia non convenzionale, quindi non legalmente riconosciuta, come può considerarsi chiaramente l'unione tra due persone dello stesso sesso. Come si può salvaguardare la propria scelta, ad esempio se ci sono figli, l'hai anticipato poco fa, ma per esempio in caso di ricovero ospedaliero, ad esempio, o purtroppo in caso di decesso. Cioè, vogliamo sapere se ci sono delle cose che si possono fare già adesso per garantire appunto quel riconoscimento dei diritti della persona, insomma, ecco. Sì, è chiaro che ogni situazione deve essere valutata concretamente da un legale per comprendere quali sono gli strumenti giuridici che possono essere messi in campo. Si possono prevedere delle disposizioni testamentarie o degli atti di trasferimento o la costituzione di diritti reali o di godimento. Io generalmente consiglio la predisposizione di alcune scritture in linea di massima, come la designazione di amministratore di sostegno della compagna, che può essere nominata nel caso la beneficiaria si trovi nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, o nel caso di figli del tutore. Ho capito. Chiaro è però che, come dire, in mancanza di un riconoscimento giuridico della famiglia e della coppia, gli istituti giuridici pensati per un altro genere di situazioni sono a dir poco insufficienti e tra l'altro rischiano di mostrare il fianco a problemi applicativi, insomma, non di poco conto. In realtà bisognerebbe pensare ad una riforma del diritto di famiglia complessivamente intesa, che contempli la possibilità sia per le coppie dello stesso sesso che per le coppie di sesso differente di poter accedere al matrimonio, ma anche se lo vogliono a altri forme, istituti di unione, di tutela della convivenza, con vincoli più sfumati ma con analoghe tutele e garanzie, insomma. Certo. E questo è sempre il solito problema che noi diciamo da anni, no? Che sembra paradossalmente che tu come singola non hai diritti, cioè acquisti dei diritti solo se sei in coppia, ma se sei una coppia legalizzata, perché se no non vai da nessuna parte. Purtroppo questa è una cosa che rivendichiamo da anni, ma insomma, vabbè. Senti, ci potresti parlare, ovviamente senza fare nomi, magari di un caso specifico che ti ha colpito in questi anni? Ma guarda, casi specifici. Io ricordo il caso di una ragazza che si è rivolta a noi perché la compagna che aveva subito una grave forma di demenza senile era stata ricoverata dai parenti stretti presso una struttura di ricovero. Ed era stato impedito l'accesso alla compagna presso questa struttura. Si era rivolta a noi e per fortuna siamo intervenuti e nei confronti della struttura e nei confronti del parente prossimo di questa signora per poter fare in modo che la compagna potesse avere i diritti di visita. Questo mi ha colpito, è stata una questione che mi ha colpito molto, ma anche perché c'era stata la risposta del appunto fratello della signora che è ricoverata, piuttosto piccata, che ovviamente disconosceva l'esistenza del rapporto. Però ecco, queste situazioni purtroppo lo so, che siano all'ordine del giorno, ma quasi si verificano piuttosto spesso. Purtroppo sì. Senti, nel ringraziarti di aver partecipato alla nostra trasmissione, ci puoi ricordare ancora una volta come ci si può mettere in contatto con voi? Sì, grazie. Intanto sono io che ringrazio voi dell'opportunità che ci avete dato. Diciamo che ci ringraziamo reciprocamente. Io vi invito a visitare il nostro sito che è www.retelenfor.it e la nostra pagina Facebook. Io volevo solo aggiungere, approfitto dello spazio che ci date per aggiungere che la nostra è un'associazione senza fine di lucro e che si basa sul lavoro volontaristico dei soci e delle socie. La mole di lavoro è enorme e abbiamo davvero bisogno del contributo di tutti e di tutte, ma anche banalmente per sostenere le spese anche delle cause che portiamo avanti. Certo. E sul sito potete trovare l'indicazione per effettuare una donazione o per il versamento del 5 per 1000 e insomma aiutarci ad andare avanti. Va bene, poi casomai lo mettiamo anche sulla nostra pagina Facebook. Facciamo girare, allarghiamo Fantastico. Le possibilità di donazione. Fantastico. Va bene, allora io adesso a questo punto ti dedico una canzone proprio che si intitola Things, perché bisogna pensare sulle cose e riflettere, e quindi ti ringrazio veramente tantissimo di aver partecipato. Poi ti manderò il link per riascoltare questa trasmissione. La caricheremo sul nostro sito e sul blog della radio. E sulla pagina Facebook. Buon lavoro. Grazie a te. Ciao. Ciao. Do you